Argentina, sono las 12 del mediodía aquí. Ok, quindi è mezzogiorno. Entonces, yo primero, pues me imagino que allá esté girando mucha energía. Ese primer pasaje a la cámara fue algo muy fuerte, que yo creo le tocó festejar, aunque es una media victoria, ¿no? Entonces, gli chiedo che cosa, che immagino che lì stia girando molta energia, nonostante questa sia una mezza vittoria, immagino che ci sia stata una grande festa. Sí, por ahora estamos a mitad de camino, nos falta la segunda parte del proceso legislativo. Fueron muchos años, presentamos muchas veces el proyecto por el aborto y es la primera vez que se trata en la Cámara y bueno, y nada, fue una noche larga, fueron 21 horas de debate de los diputados. En el medio todo el tiempo los números eran negativos, así que muchísima angustia, pero bueno, hubo, por lo que dicen los diarios, aquí 1 millón de personas en la calle, así que esa Pensa. presión nos jugó a favor. Sì, insomma, quello che ci racconta è che appunto è stato anche molto faticoso, visto che la piazza è stata piena per 21 ore di dibattito e durante la votazione, appunto, i voti una volta vacillavano a favore, una volta contro, quindi è stato anche molto ansiotico e pesante. Poi era a parecchi anni che si tentava di far entrare una legge che permettesse, che depenalizzasse l'aborto e invece finalmente è la prima volta che questo viene trattato appunto alla Camera. E quando appunto poi i voti hanno vinto, ve lo dico, insomma, 131 voti a favore per 123 contro, quindi insomma un distacco molto al limite. E i giornali oggi parlano di 1 milione di persone nelle piazze. Ah, un 1 millón milione. de feministas en la calle generando presión que hoy por hoy ningún partido político ni central obrera puede mover en Argentina, porque Certo. la realidad es que estamos ante un proceso neoliberal profundo y sin embargo la gente no sale a la calle por eso. Y anoche éramos una marea verde rodeando el Congreso para que sientan la presión del feminismo. Certo, quindi 1 milione di femministe, numeri che nessun partito politico né nessuna organizzazione sindacale è mai riuscita a portare in piazza. 1 milione di femministe che hanno fatto una pressione che probabilmente è servita, insomma, e che ha fatto sì che diciamo, questa legge potesse avere aperta questa strada. Lo che te iba a preguntare esattamente è se hai altri settori del paese che hanno fortemente appoggiato la lucha femminista, essa lucha in particolare. Sí, yo creo que del 2015 para acá el feminismo ha superado la barrera de las grandes ciudades y hoy por hoy, y en particular este debate, se dio en todo el país, incluso en los lugares más conservadores del interior y de las provincias. Creo que eso es realmente una conquista del feminismo, haber logrado vencer esos espacios conservadores que tanto han oprimido a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis y a las personas trans. Certo, quindi insomma sicuramente questo movimento ha ricevuto la solidarietà di altri settori, in particolare di settori che erano storicamente un po' nelle mani del conservatorismo argentino, quindi questa è stata una vittoria in più. Tutto questo si muove in un momento dove il neoliberalismo in Argentina è fortissimo, è potentissimo, ne parliamo spesso qui parlando appunto delle cause Mapuche piuttosto che dei processi, piuttosto delle condizioni del paese. E comunque è stata una vittoria appunto delle femministe e che sono state quelle forze conservative che hanno sempre attaccato le femministe, ma non solo, comunque le lesbiche, i gay, come le trans, che invece, e credo che essa fluidità di genere también appoggiò ese movimento, no? Sí, de hecho se ve reflejado en el proyecto de ley. Es una ley que habla principalmente de las mujeres, pero también habla de los cuerpos gestantes, porque en Argentina las personas trans tenemos ley de identidad de género. Entonces era muy importante que se reconociera la capacidad de gestar como un sujeto de derecho, porque si no íbamos a quedar excluidos de esta lucha que es transversal che è storica il femminismo, le persone trans. Claro. Sì, giustamente dice sì, non solo l'hanno appoggiata, ma nella legge è stato richiesto proprio che si comprendesse i corpi gestanti, non per forza femminili, questo lo aggiungo se non dovesse essere chiaro. Quindi comunque dei corpi gestanti al di là della propria scelta. E questa chiaramente, se non fosse stato così, ci dice appunto, sarebbe stata una lotta isterica, completamente fuori dal mondo, se avesse lasciato appunto fuori da questa legge tutte queste realtà. Ah, yes, es muy, perché come diceva, perché come diceva, loro hanno una legge che riconosce queste possibilità, e quindi sarebbe stato assurdo, quindi la possibilità di un corpo di gestazione al di là del riconoscimento sessuale, e quindi questa sarebbe stata un'assurdità. Sì, eso es muy mucho más adelante que aquí casi toca explicarlo. Pero bueno, sí. De todas formas hay que decir que lo que era el proyecto original, el primer proyecto que venimos presentando desde hace años, tuvo que hacer concesiones porque era un proyecto muy amplio. Ahora se permite sin causal hasta la semana 14, digo, se pusieron algunos límites al proyecto original, sí. Pero de todas maneras sigue siendo un proyecto avanzada y que nos garantiza el acceso a la salud a todas las personas. Sì, quindi chiaramente appunto c'è un'apertura, che lei ha detto, certo, dei limiti sono stati messi rispetto a quello che era il progetto originario, per esempio il fatto che si possa abortire fino alla 14ª settimana, quindi insomma dei limiti ci sono, però sicuramente questo comunque comprende a tutte le realtà che possono accedere a questa legge. E, sì. Qual sono il tempo che la legge llegue al Senato? Técnicamente, o sea, de manera legal, tienen hasta 2 años para darle tratamiento a la ley en el Senado, que es lo que denominamos Cámara Alta acá. Sí. De todas formas, nosotros creemos, igual nada, hace 3 horas que volvimos de la plaza, nosotros creemos que no va a pasar de octubre, noviembre de este año. Sobre todo porque el feminismo va a ser la presión necesaria para que no se prolongue, pero no creo que se trate en las próximas 2-3 semanas, seguramente sea más, ya te digo, entre octubre y noviembre, por lo que están diciendo. Ok, quindi i tempi giuridici, diciamo, di legge potrebbero essere anche quelli di 2 anni, ma sarebbe abbastanza incredibile che si avvalessero di tutto questo tempo. Qualcuno dice, ma sono mere parole, che si parli di ottobre-novembre, ma sicuramente, ecco, non sarà sicuramente nelle prossime settimane, ma lei dice probabilmente, ma ci dice che probabilmente non arriverà a passare ottobre-novembre, anche perché il femminismo è pronto a fare pressione e a pretendere che questa cosa accada, quindi insomma, ma davanti ai numeri che ci ha detto, pensiamo che sia una forza molto potente. Sí, y la verdad, otra cosa que para mí es muy importante, quisieron imponernos la objeción de conciencia de forma individual y de forma institucional, y bueno, fue una de las cosas que se concedió, pero solo de forma individual, y cada centro médico tiene que garantizar que haya un prestador ahí que pueda facilitar un aborto, digamos. No pueden... Que lo pueda practicar, que garantice, digamos. Tal cual, mm-hmm. Sí. O sea, las personas que son antiderechos, los grupos antiderechos, pedían que se garantice la objeción de conciencia institucional. Logramos que se garantice objeción de conciencia individual, pero que cada institución garantice tener profesionales que hagan la práctica. Ok, quindi appunto un'altra cosa molto importante riguardo all'obiezione di coscienza è che gli antiabortisti hanno chiesto che ci fosse un'assunzione dell'obiezione di coscienza istituzionale. Quello che è stato raggiunto invece è che l'obiezione di coscienza viene permessa a livello individuale, e che invece nelle istituzioni che dovranno praticare questa pratica ci sia la garanzia che ci sia almeno un medico disposto a farlo, e quindi a garantire che ci sia la possibilità di praticarlo. Y eso es lo que nos jode a nosotras italianas, para que tenemos una ley por el aborto, porque no regula lo que es la objeción de conciencia, y estamos completamente jodidas. Hay una ley, pero es como que no hubiera. Exacto. Exactamente. ¿Y cuál será? ¿Qué opinas? No sé, porque a mí me metió un poco de miedo, como no conozco mucho después la formación del gobierno, por lo que sé, pero es muy complicado de tan lejos. Bueno, los votos de distancia no fueron muchísimos. ¿Tú crees? Los votos, son 131 votos a favor y 120 y pico en contra, ¿no? No hay una gran distancia. Sí, correcto. No, hubo 5 o 6 votos de diferencia. ¿Y en el Senado cómo va a ser la batalla? ¿Cómo será? ¿Qué crees tú? Mira, tradicionalmente acá en Argentina el Senado es una cámara más conservadora que diputados, principalmente por una cuestión de edad. Digamos, el promedio de edad en diputados hoy es de 45 años y en senadores es de 60. Y esa diferencia generacional es algo que nos juega en contra siempre para este tipo de conquistas. Yo creo que de todas maneras la presión que está ejerciendo el transfeminismo y los movimientos feministas no es algo con lo que quieran lidiar los senadores. Entonces, si bien por ahora los números no nos son favorables, creo que podemos revertir esa estadística de acá al momento que se sancione. Vamos a requerir estar en la calle, vamos a requerir mucha organización y el coraje, ¿no? Que al feminismo le sobra. Sì, insomma, loro poi sono tornati da 3 ore dalla grande presenza nelle piazze. Comunque quello che gli ho chiesto come pensa che sarà la battaglia al Senato, visto che comunque nella Camera i voti sono stati la differenza è stata di, mi pare, 7-8 voti. Beh, mi risponde che quella che loro chiamano il Senato, che loro chiamano appunto la Camera Alta, c'è una differenza abissale di media d'età, quindi i 45 anni di una rispetto ai quasi 60 dell'altra fa sì che comunque rispetto crei una differenza generazionale per cui si trovano sempre incontro la generazione più anziana, soprattutto su queste tematiche. È vero però che si sta creando un clima di consenso tale che non può non essere visto e che loro comunque torneranno nelle piazze, torneranno a fare rumore, torneranno a pretendere come hanno fatto in questi mesi, perché abbiamo visto che questo è stato fondamentale nel percorso che ha portato fino ad oggi e che quindi è una cosa di primera importanza. Io te agradezco muchísimo, non so se hai algo que quiere decirnos, que yo no te pregunto, pero que crees que sea importante que se sepa y que pase hasta acá en Italia, o por lo menos que se sepa. A mí me encantaría, como siempre, decir que estamos haciendo historia y que esto es internacional y que no tiene que ver con que Argentina conquiste un derecho, sino con que el feminismo siga construyendo consensos y siga construyendo derechos para todos. Digo, América Latina es uno de los continentes que más oprime a las mujeres y creo que esta conquista en Argentina puede llegar a marcar una punta para el resto de las compañeras. Y eso también tiene que ver con el apoyo que recibimos tanto de las compañeras feministas de Europa como de otros países. Realmente, si algo es el feminismo, es internacionalista y eso es lo que hay que celebrar, porque la revolución será transfeminista, o no será. Grande. Vabbè, chiaramente ci dice, bueno, che quello che vuole sottolineare è che questa non è, per quanto sembra, non è una vittoria solo argentina, è una vittoria del femminismo tutto. Quello che sta succedendo, che sta facendo il transfemminismo, il femminismo in Argentina è un fatto storico e che sta marcando anche quello che sta succedendo nel resto del continente, che è uno dei continenti più devastati da questo punto di vista in quella che è la cosiddetta guerra dei generi e che quindi è molto importante. Hanno ricevuto tantissimo appoggio dalle donne europee, così come dalle donne degli altri paesi del Sud America, e quindi è una vittoria del femminismo e del transfemminismo e non solo dell'Argentina, perché la rivoluzione o sarà transfemminista o non sarà. Ecco. Me dejas con escalofríos y no, bueno, claro. A mí también, me encanta hablar con ustedes. Sí, siempre. Imagínate, porque pues nosotros sentimos mucho la energía que en estos años ha llegado de las compañeras y de los movimientos de Sudamérica para nosotros acá, que somos muy afortunadas, muy calladas, y eso ha sido para nosotras muy importante como ejemplo, como medida de lucha, y bueno, entonces es un intercambio que nos hace un país aparte, como decir, entre nosotras. Nos hace un mundo aparte. Exactamente. Queremos ser otra humanidad. Exacto. Así que estamos trabajando. Eso, eso. Bueno, yo te abrazo, abrázame a todas y pues nos estamos hablando para cualquier cosa pase por ahí y para cuando vamos a saber qué pasará la discusión a la Cámara Alta. Te abrazo fuertísimo. Perfecto. Abrazo para ustedes también. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, dale. Gracias. Chao, chao. Chao.